Se si compie qualcosa, qualunque cosa compiuta, alla fine decadrà. È andato oltre la trasmigrazione. La liberazione non può essere realizzata come oggetto della mente. Nella condizione mentale, la realizzazione è la legge della trasmigrazione. Se non si ha una reale comprensione della non realizzazione come risultato, pur facendo qualsiasi sforzo nel desiderio di conseguire un risultato, non è possibile ottenere la liberazione. Poiché il desiderio del Dharma, la legge morale, non annulla la mente, agendo verso il Dharma, con una mente piena di desiderio, lo stesso Dharma diventerà un fattore di incatenamento. Per questa ragione bisogna dare la vita per gli insegnamenti. Poiché lo stato di Buddha non è costituito di aggregati, come si può realizzarlo attraverso l'impiego di aggregati? Non si provi attaccamento verso ciò che è costituito di aggregati, non si abbia troppa speranza nel Dharma dell'azione, la legge morale dell'azione. Non avendo attaccamento verso il corpo fisico, si ottiene lo stato del glorioso. Non avendo attaccamento verso la voce, si ottiene il suono del glorioso. Non avendo attaccamento verso la mente, si ottiene il pensiero del glorioso. A parte il fatto che senza l'attaccamento si manifesta la chiara luce, la comprensione dello stato del vittorioso non si può cercare all'esterno. E Maho, pratica del Jichod, significa tagliare i pensieri distraenti. Insegnamento orale significa che la natura è immutabile. Sezione significa che l'insegnamento è diviso in sezioni. L'insegnamento sull'esperienza dello zelo va oltre l'aspetto della speculazione e trascende la mente che esperisce. Quando si pratica il GCOD nei luoghi orridi è come quando si è bruciati dal fuoco. E con lo stesso fuoco si fanno applicazioni dolorose. L'insegnamento che fa superare e mandare indietro le negatività attraverso la pratica del GCOD, che provoca il sorgere di forti sensazioni, è simile alla cura delle ustioni con applicazioni di fuoco. Poiché la visione delle cause concomitanti viene appesantita come da un fardello dall'ignoranza, sorge la comprensione che il peso è il principio dell'appesantimento. Se tutta la realtà non viene appesantita dal fardello con l'uso di antidoti pacifici e rasserenanti, non si può ottenere la liberazione. Si vaghi per luoghi orridi ed ermi montani, non ci si distragga con gli esempi. Attraverso le parole di esempio non si riceve il potere. Si sappia che le parole appartengono alla realtà comune, perciò si pratichi nei luoghi desolati. La grande sezione dell'insegnamento orale, testo originale sulle istruzioni esoteriche della profonda pratica del GCOD, composta da Mag Chig, Daikini della saggezza, Tara di Leb, è qui completata.